Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Con la puntata di oggi si apre la nuova stagione di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nei prossimi mesi continueremo a raccontarvi tutte le novità su consumi e nuove tendenze, passando per web, retail, moda, design, pubblicità e marketing, a caccia di nuove storie da raccontare e segnali di futuro da intercettare. Iniziamo allora con un indicatore che ogni anno in questo periodo ci racconta come stiano cambiando le abitudini di acquisto delle famiglie italiane. È il rapporto sui consumi stilato dal marchio leader nella grande distribuzione in Italia. E a proposito di spesa al supermercato, scopriremo anche la classifica delle insegne più convenienti a firma di un'importante associazione di consumatori. Seconda parte, dedicata invece al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi antisocial, quando l'anonimato digitale fa tendenza. La borsa della spesa. Bisogna essere positivi, ragazzi, positivi. Il momento è brutto, però bisogna essere allegri, capito? Il momento è brutto, ma bisogna essere allegri. Un po' come una canzone triste, però ci metti una musica allegra, capito? Allegria, ma canzoni tristi. Via! Quando sei disperato come me, senza te. Ecco come Fiorello ci suggeriva di reagire alla crisi. Era il 2009, ma poco è cambiato, soprattutto per quanto riguarda gli indicatori sui consumi e la loro lettura. Per Confcommercio siamo alla fine del crollo, anche se la ripresa è lontana. Per l'Istat c'è una luce in fondo al tunnel, perché la fiducia dei consumatori e delle imprese è in forte risalita. Meno ottimista Coop, insegna leader della grande distribuzione in Italia, che come ogni anno fotografa il paese attraverso il carrello della spesa. Gli italiani sembrano ormai rassegnati a uno stile di vita all'insegna delle rinunce. Nel 2013 la contrazione media annua dei consumi sarà del 2,2%, dopo un calo del 4,3% nel 2012, a fronte di una nuova riduzione del reddito disponibile, che negli ultimi 6 anni ha superato il 10%. Gli italiani tagliano le spese e bandiscono anche i vizi. Vino meno 5%, superalcolici meno 3%, fumo meno 14% in 2 anni e caffè meno 21% in 6 anni. Resistono solo gli accessori per il sexual entertainment, più 6%, e il Viagra, più 8% in 2 anni. La spesa alimentare torna ai livelli degli anni 60. Dal 2007 al 2013 segna una flessione del 14%. In 40 anni il cibo è sceso dal 35% al 15% dei consumi. A causa della crisi, 8 italiani su 10 hanno modificato le proprie abitudini di acquisto, comprando meno carne, pesce, pane, frutta e verdura, con un dato positivo su tutti: sprecano molto meno. Tra il 2006 e il 2012 la quantità di rifiuti pro capite è diminuita di 50 kg. Il cibo etnico invece continua a crescere, così come il biologico. E le vacanze non sono più per tutti. Dal 2007 i viaggi sono diminuiti del 30%. Nell'ultimo anno la quota di italiani che hanno pianificato almeno una vacanza estiva è scesa dell'8%. La spending review è entrata nei consumi delle famiglie, ci dice Enrico Migliavacca, vicepresidente vicario dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori Coop. La spending review è entrata in modo pesante nella politica economica delle famiglie italiane, nel senso che c'è stata una diminuzione consistente dei consumi, praticamente tutte le grandi tipologie. Colpisce il consumo alimentare, che è tornato ai livelli degli anni 60? Il consumo alimentare è tornato indietro rispetto ai tempi in cui c'era questa grande opulenza nel nostro paese. Sotto un certo aspetto c'è una maggiore attenzione. Si acquistano i prodotti che poi si consumano, non si butta via più niente. Gli italiani sono estremamente attenti agli acquisti alimentari, li hanno cambiati anche in virtù del fatto che sono passati dalla carne di manzo e vitello alla carne di pollo, cioè costo chiaramente inferiore, alla carne di maiale. Hanno cambiato alcune tipologie, diminuzione olio d'oliva, proprio perché c'è questa situazione economica che incide pesantemente. Un dato che mi ha sorpreso è che per la prima volta a distanza di molti anni, anche per quanto riguarda i prodotti dei bambini, c'è stata una diminuzione negli acquisti, perché il bambino è sempre stato salvaguardato nella famiglia italiana. Quest'anno vediamo che anche sui prodotti dedicati all'infanzia c'è stata una diminuzione considerevole, è un fatto nuovo questo. Nel panel che avete presentato concludiamo con l'unica nota positiva che riguarda il sexual entertainment, così era definito. Siamo andati un po' alla ricerca di una nota più, la nota più è quella, nel senso che c'è stata una crescita consistente di tutti questi prodotti a livello farmaceutico, che sono in crescita costante oramai da diverso tempo. E per il presidente di Coop Italia, Marco Pedroni, industria e distribuzione si devono alleare per far ripartire i consumi. Purtroppo il quadro è ancora duro, ma si possono fare delle cose, le deve fare sicuramente il governo per sostenere la domanda interna, io penso anche aiutando i ceti più poveri, più deboli, ma anche il ceto medio ad aumentare un po' il proprio potere d'acquisto. Ma possono fare cose importanti non solo l'industria agroalimentare, ma anche la distribuzione. Dobbiamo davvero trasferire tutto quello che possiamo trasferire ai consumatori e al loro potere d'acquisto, perché senza una spinta ai consumi e alla domanda interna questo paese non può ripartire. Come farlo? Con tante attività concrete, noi ci incontreremo con l'industria nelle prossime settimane per discutere di questo e penso che troveremo anche buone disponibilità. In questo scenario è ancora pendente la questione del possibile aumento di un punto dell'IVA. Ogni aumento di una tassazione generalizzata deprime l'economia del nostro paese. Un punto di aumento dell'IVA può sembrare poco, ma in realtà deprimerà ancora la domanda interna e attraverso questa via ancora l'occupazione e penalizzerà il paese, quindi è la cosa sbagliata da fare. E a proposito di spesa al supermercato, anche quest'anno Altro Consumo, attraverso la sua ricerca annuale che coinvolge oltre 900 punti vendita in 68 città, ha proclamato l'insegna più conveniente. Si tratta di U2 Supermercati del gruppo Unes, seguita a breve distanza da ipermercati Iper e Interspar. Molto bene anche Leclerc, Conad e Ipersimpli. A scendere troviamo la catena veneta Ali e le catene di ipermercati Ipercoop, Bennett e Auchan. Poi Panorama e Esselunga. Trovate il link alla classifica completa sulla nostra pagina Facebook. Pistoia, la città più conveniente, dove in un anno una famiglia spende 5.876 euro contro i 6.500 di Milano o i 6.700 di Roma. Tra le più care troviamo Ragusa, Messina, Sassari, Siracusa, Reggio Calabria e Aosta. La curiosità è a Verona, il negozio più conveniente in assoluto, l'Iperfamila di via Borgobello. Scegliendo bene dove e come fare la spesa, dice l'associazione di consumatori, si possono risparmiare fino a 1.500 euro all'anno. Marco Bulfon, coordinatore dell'indagine. Si fa una spesa prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, di prodotti di marca, che sono quelli che prevalentemente le famiglie acquistano, si può arrivare anche a risparmiare nell'ordine dei 1.400 euro in un anno, a seconda della città in cui ci si trova. Questo perché per questo tipo di prodotti ciò che conta di più è il livello di concorrenza che si fanno all'interno della città i supermercati che sono presenti. Però anche in città dove c'è minore concorrenza sui prodotti di marca, le famiglie stesse possono stimolare la concorrenza sui prodotti non di marca, cioè orientando la propria spesa su prodotti che generalmente costano meno, e che consentono di risparmiare considerevolmente, spesso addirittura senza cambiare supermercato. Generalmente un prodotto a marchio commerciale consente di risparmiare circa il 30-40% sulla propria spesa. Se addirittura si arriva al discount, la spesa può più che dimezzare. Oggi le promozioni sono uno strumento di marketing molto usato dalle insegne dei supermercati. Quanto possono permettere di risparmiare? Mediamente consentono di risparmiare intorno al 20% sul prezzo, diciamo così, originale, cioè sul prezzo che normalmente il supermercato fa su quel prodotto. Quindi, diciamo, in generale il risparmio c'è ed è fuori discussione. Noi siamo un po' meno convinti di una certa tendenza che si va sviluppando, anche perché si sviluppano molti strumenti su internet, della caccia alle promozioni. Anzitutto, le promozioni non consentono mai di fare una spesa completa. In un singolo supermercato di sole promozioni, tra virgolette, non si può vivere. Quindi l'alternativa sarebbe di andare a caccia delle diverse promozioni nei diversi supermercati, ma siccome stiamo parlando di un risparmio di circa il 20%, alla fine i vari spostamenti ridurrebbero significativamente questo 20%. Quindi noi generalmente consigliamo di individuare quello che è il supermercato nel quale si riscontrano i prezzi migliori per il tipo di spesa che si fa. Essere e avere. Mi piace. Posta commento. Scrivi un messaggio. Condividi filmato. Tagga una foto. A cosa stai pensando? Commenti. Segnala evento. Resta collegato. Rispondi al messaggio. Inizia a chattare. Suggerisci amici. Siete schiavi degli status aggiornati e del presenzialismo online, oppure resistete tenacemente all'era dei social network? In entrambi i casi restate in ascolto, perché nel focus sui trend che apre la stagione parliamo di uno di quei temi controcorrente che agitano le acque, per restare in metafora. Parliamo di consumi antisocial, di anonimato digitale e critica del web. Per farlo ci ha raggiunto in studio la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Club. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Chi vuole essere chic deve essere ungooglable, deve sparire cioè da Google, rinnegare Facebook, Twitter, Instagram, perseguire con metodo l'irreperibilità digitale. Parola di Phoebe Philo, direttore artistico di Celine e guru di stile globalmente riverita, un personaggio che qualche settimana fa si è fatta portavoce di uno dei fenomeni in evidenza, la critica del web, appunto, fenomeno ricco di studiosi dei nuovi media e delle loro definizioni, come la psicopatologia dell'online dell'olandese Geert Lovinik, l'ingenuità della rete di Yevgeny Morozov, la vertigine digitale di Andrew Keen, guru anti-social network. Patrizia. Internet e il web, sappiamo, sono una rivoluzione sociale e non tanto e non solo una rivoluzione tecnologica. Perché? Perché hanno ribaltato completamente il sistema delle relazioni tra tutti i soggetti sociali e di mercato. Le persone, i consumatori, le aziende, gli investitori, i comunicatori, eccetera, eccetera, nessuno escluso. Questa rivoluzione evidentemente ha dei pro e dei contro. I pro sono le nuove opportunità lavorative e occupazionali, per esempio pensiamo al mondo delle start-up digitali, ma non solo. Sono l'emergere di nuovi modelli di consumo grazie ai servizi digitali collaborativi, anticrisi, le potenzialità relazionali, amicali e professionali che le persone non avevano prima dei social network, i nuovi canali distributivi delle aziende. In una parola, l'e-commerce. Beh, accanto a tutti questi pro ci sono anche dei contro. Nei contro ci sono i rischi di avere la propria privacy violata, i rischi di dipendenza appunto da vertigine digitale, rischi di reputazione legati a un uso ingenuo della rete che fa sottovalutare per esempio l'eternità dei dati digitali, quindi rischiamo di caricare un video imbarazzante che poi magari ci fa perdere il lavoro, insomma la paura di essere spiati dal grande fratello. Rischi fondati dati peraltro che fanno scattare in molte persone la voglia di anonimato, di essere ungooglable, come dicevi, cioè non rintracciabili. Di fatto però non esiste un modo definitivo per non lasciare tracce. Si può decidere di smettere di esserci sul web, ma questo non garantisce la scomparsa o l'irreperibilità retroattiva del nostro passato digitale. Quindi ci si può camuffare dietro false sembianze, si può rinunciare ai filtri personalizzati che un po' riducono anche la casualità della scoperta in rete, ci si può insomma sottrarre un po', diventare un po' più timidi, meno esibizionisti, meno confessionali, si può per esempio attivare il servizio Inactive Account Manager di Google, che dopo alcuni mesi di inattività, 3, 6, 9 o 12, elimina per esempio i propri dati, questo in caso di morte. Oppure grazie a siti come Just Delete Me, cancellami e basta, ci si può togliere da alcuni servizi o social network. Insomma, le prove tecniche di sparizione sono molte, questo fenomeno è rilevante senz'altro, ma l'anonimato digitale, nonostante le buone ragioni per volerlo, per chi è parte di questo ecosistema rimane un po' un sogno. Ma per chi vuole provare a usare le tecnologie connettive senza essere reperibile, ci sono consigli ovviamente su un sito, documentally.com. I consigli sono di questo genere: usare canali criptati per le mail, tenere il cellulare mai in borsa o in tasca se non schermato con metallo, sostituire Skype con Jitsi, avere un numero di telefono cosiddetto burner, non riconoscibile, usare un cappello speciale antitelecamera a circuito chiuso negli spazi pubblici. Insomma, un'attività molto impegnativa, paragonata a un lavoro part-time, dice chi l'ha provata, dunque ne deve valere davvero la pena. Anche in Italia il fenomeno prende piede, tanto che è nato un movimento di critica dei social network che si chiama Slow Communication. Per saperne di più abbiamo in collegamento il suo fondatore Andrea Ferrazzi. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vorrei iniziare con una frase che ho letto, attribuita appunto a te in questo contesto: se siamo tutti follower, chi guida? Sì, è una citazione di Thomas Friedman, l'autore del testo Il mondo è piatto, di tanti altri, che secondo me è un po' emblematica della fase storica che stiamo attraversando. Perché questa critica ai social network? In realtà è una critica ai social network, ma più in generale è una critica alla tecnologia e allo spazio sempre crescente che sta rivestendo nella vita di ciascuno di noi, una critica in senso costruttivo e non solo in senso negativo, nel senso che non siamo un movimento luddista che critica e attacca ed è contro a prescindere la tecnologia, ma è un movimento che si prefigge lo scopo di un utilizzo consapevole di tutti gli strumenti che ci accompagnano ormai in modo, direi, imprescindibile. Una delle riflessioni che voi stimolate è quella sul valore, presunto valore democratico, che viene universalmente attribuito ai social network. Ecco, fortunatamente le voci critiche iniziano ad aumentare. All'inizio eravamo un po' pochi a contestare, come dire, questa ondata tecno-ottimista. In realtà adesso le voci critiche si stanno levando sempre più forti ed è proprio il rapporto tra nuovi media e democrazia uno degli aspetti più critici e forse anche più preoccupanti che meriterebbero più attenzione. A me piace parlare di Digital Divide 2.0, ovvero la differenza tra coloro che utilizzano i nuovi media e i nuovi strumenti di comunicazione, la nuova tecnologia, in modo consapevole, e coloro invece che saranno usati più che utilizzare la tecnologia. Ecco, è lì che bisogna lavorare ed è lì che come movimento vogliamo lavorare, quindi sulla formazione a partire dai giovani delle scuole medie, se non addirittura elementare, insegnare a usare i nuovi media per evitare che ciascuno di noi sia usato dalla tecnologia. Grazie ad Andrea Ferrazzi per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata e buon proseguimento. Patrizia, il modo più facile per sparire da internet è disconnettersi. Molti dei prodotti e servizi che si rifanno a questa tendenza hanno a che fare con la disconnessione. Sì, accanto alla voglia di sparire nel web, quindi esserci ma senza essere tracciabili, quindi ungooglable, ci sono molte evidenze appunto di un altro bisogno un po' meno paranoide, più sano e che riusciamo a soddisfare più facilmente, cioè la voglia di sparire dal web, quindi disconnettersi temporaneamente, uscirne per un po', magari facendosi aiutare dai molti servizi che puntano sulla disconnessione proprio come proposizione di valore. È quello che fanno agenzie e destinazioni turistiche, campagne di comunicazione, ristoranti, addirittura strutture ospedaliere. Ed è questo della disconnessione un tema su cui ci invitano a riflettere film come Disconnect, uscito in America nel 2012, lo dice il titolo, un film sui danni degli usi impropri ed eccessivi della tecnologia e della rete, o libri come The Big Disconnect, che dà indicazioni ai genitori su come proteggere i bambini da internet e gestire questo tool complesso, controverso, da tenere un po' sotto controllo. Vediamo ora qualche esempio delle possibilità che offre il mercato per chi, staccando il cavo, punta a riconnettersi con se stesso, con il mondo reale, cosiddetto, con gli amici in carne e ossa. Chi si sente di essere malato di web, cioè sovraccaricato di stimolazioni ipersensoriali da connessione continua, può farsi aiutare da specifiche app. Ci stacca dalla rete tutta l'app Freedom, ci stacca solo dai social network l'app antisocial e via dicendo. I casi più seri di intossicati, dalle ricerche pare siano gli americani, gli asiatici e i giapponesi, cioè persone che compromettono la propria salute mentale e fisica, la propria vita sociale e professionale, perché convogliano tutto il tempo le energie e le esperienze nella vita digitale. Ebbene, questi potranno rivolgersi dal 9 settembre al Bradford Medical Center in Pennsylvania, il primo ospedale per la riabilitazione da internet. Ad altri può bastare scegliere qualche locale silenzioso, ristoranti per esempio, che non solo sconsigliano o vietano l'ingresso con i device elettronici, ma che fanno addirittura uno sconto sulle cene vecchia maniera, senza scatti fotografici e pubblici invisibili collegati. E sono molte, dicevamo, le agenzie viaggio come Via Yoga di Seattle che offrono addirittura pacchetti lusso per vacanze disconnesse. Ed è una campagna proprio sul tema Digital Detox dell'agenzia SVG per un arcipelago caraibico che ha vinto il premio come migliore campagna PR ai Travel Marketing Awards del 2013. La campagna propone proprio l'idea di vacanza detech, questo è il termine, e questa meta turistica viene presentata appunto come alternativa alle destinazioni high-tech e come vera via di fuga dalla dipendenza dai gadget elettronici. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo in California sui consumi antisocial? Bentornata anche alla nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao Maria Luisa, buon pomeriggio. Dunque, lo scorso giugno 300 fortunati, chiamiamoli così, hanno potuto partecipare al primo Camp Grounded, una 4 giorni di una sorta di campo estivo per adulti, all'insegna della totale sparizione dalla rete e dai social network. Le regole del campo infatti parlano chiaro, oltre a nessun device tecnologico è assolutamente proibito parlare di lavoro e i partecipanti devono scegliere uno pseudonimo e non presentarsi col loro vero nome. Le attività del campo sono le più diverse e vanno dalla meditazione allo yoga, da workshop di scrittura creativi a gare di rubabandiera fino alla danza sotto le stelle e le gare di abbraccio libero, ma tutte con un obiettivo comune: riprendere il contatto con se stessi ed entrare veramente in connessione con le persone per recuperare l'autenticità e la spontaneità delle relazioni. Non a caso il motto dell'iniziativa è proprio Disconnect to Reconnect. Grazie Alessia, il collegamento oggi ci ha fatto qualche scherzo, ma il tema lo consentiva. Patrizia, i grandi scandali che hanno fatto notizia, Wikileaks, Datagate, del resto lo testimoniano, è iniziata l'era dell'uso critico del web. Anche i consumatori si stanno accorgendo che i dati sotto forma di amicizie, preferenze, commenti, risposte sono la nuova valuta dell'economia sociale e come tale andrebbero messi in cassaforte? Ma non esiste di fatto una cassaforte in cui tenere i nostri dati, che certo hanno valore economico e vengono usati dalle corporation, dalle agenzie di sicurezza, da Google, che di noi ormai è chiaro, sa più di quanto noi stessi sappiamo e ricordiamo. Lo dimostra il nuovo servizio Google Now, che ci propone ciò che non abbiamo ancora chiesto ma che potremmo volere. Se siamo in una città diversa dalla nostra ed è ora di cena, ci segnala che potremmo aver bisogno di un ristorante. Quindi, fuori da internet ci salveremmo certo dal Grande Fratello, ma a costo di molti svantaggi. Perché ricordiamoci che internet non è solo fare like, fare amicizie, aggiornare status, guardare mail in tempo reale, ma è informazione, piattaforme collaborative, di finanziamento di progetti, è canali di vendita, di acquisto e molto molto altro. Quindi il costo di tutto questo è un po' meno privacy. Si chiude qui questa prima puntata della nuova stagione di Essere Avere. Scriveteci, veniteci a trovare su Facebook in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzale.